perché io sono il ritratto dell'amore, ho colorato il mondo e già posso partire da un dolore e farci sopra. Stelle dalla terra che ti ammollo e gli occhi in su, sembriamo due ma sono solo, guardati sei solo anche tu. Ti dicevo del bambino, si somiglia ancora e sai perché io sono il ritratto dell'amore, c'è tutto intorno un mondo e già non so cambiarlo, ma d'amore so farci sopra un fiore e già sono il ritratto dell'amore, mi hai già fissato un